Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo arrivati anche alla settimana numero 17 di Ecletica. Benvenuti sulle frequenze di Rock FM, sia che siano frequenze terrestri, ormai sono rimaste veramente poche, sia che siano frequenze, per così dire, satellitari. Sì, ci si arriva via satellite grazie alla piattaforma di Sky, ma non è tanto una frequenza quanto un canale giusto da trovare. E sia per quanto riguarda internet o in streaming o in podcasting, che sembra essere di tutte le possibilità quella più sfruttata da qualche mese a questa parte. Ho la sensazione di essere ascoltato più in podcasting che negli altri modi. Magari cercherò anche di fare un'indagine più approfondita per capire se questa è solo una sensazione o è una certezza. Giulio Caperdoni in vostra compagnia questa settimana, anche con biglietti che verranno messi in palio a giulio at radiorockfm.com. Avrete tempo, quattro parti di un'intera settimana, per capire quali sono i concerti a vostra disposizione. Ci sono ancora delle storie possibili? Storie per scrittori? Se uno non intende parlare di sé né romanticamente generalizzare, liricizzare il proprio io, se proprio non si sente obbligato a parlare con spietata sincerità delle proprie speranze, delle proprie sconfitte o del proprio modo di fare all'amore, come se l'assoluta veridicità ne facesse un caso universale e non invece, nel migliore delle ipotesi, un caso clinico, psicologico, se invece intende tirarsi da parte con discrezione, difendere cortesemente le proprie faccende private, ponendosi di fronte al proprio tema come uno scultore di fronte alla materia da cui vuole ricavare una statua, lavorandoci e sviluppandosi attraverso di esso, e voglia, come facevano una volta i classici, non lasciarsi prendere subito dalla disperazione, anche se non può certo negare l'assurdo che ovunque viene a galla, allora scrivere diventa un mestiere più difficile, più solitario ed anche più insensato. Questo era l'incipit di La Panne di Friedrich Dürrenmatt. Thank you. Yeah. Un bel inizio, a me è piaciuto questo inizio di Eclettica della settimana, della 17ª settimana di questa 13ª stagione, in quanto abbiamo preso due dei brani che a me più piacciono all'ascolto delle ultime scoperte, delle scoperte di questa settimana, a partire dagli Ajagas della tribù dei Sami. Anche in Europa abbiamo tribù che hanno subito, come vi raccontavo la volta scorsa con più dettaglio, la stessa sorte dei nativi americani. Moon Jamun è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, e grazie alla Ever Records per aver permesso l'incisione di questo disco dalle terre della Lapponia. E poi ci siamo trasferiti in Giappone con il brano che si è appena chiuso, I Ghost, da In Stormy Nights, l'album che esce per la Drag City. Il brano che vi siete ascoltati era Caledonia. Vi avevo parlato di biglietti per quanto riguarda concerti. Già da qualche giorno il contest, per così dire, è iniziato. I partecipanti a questo contest sono coloro che sono iscritti alla lista nera. Bisogna avere qualche privilegio essendo iscritti alla lista nera, oltre al ricevere la playlist settimanale di Eclettica nella propria casella di posta. Per esempio, poter aver già vinto alcuni dei biglietti che avevo messo a disposizione, anzi per alcune città addirittura esaurendo la disponibilità. Vi ricordo che per iscrivervi alla lista nera l'indirizzo è giulio@radiorockfm.com. Però per alcuni dei biglietti delle prossime settimane, che comunque non annuncerò nella settimana in corso, neanche quelli della lista nera ancora lo sanno, perché proprio oggi si sono chiusi gli accordi. Comunque, per tutti c'è in palio Micah P. Hinson, e queste sono le date: il 30 di questo mese a Torino, spazio 211, il 1 di febbraio a Firenze, al Sintetica, il 2 di febbraio a Ravenna, al Bronson, e il 6 a Milano, alla Casa 139. Vi ricordo, il modo per vincere è giulio@radiorockfm.com. There's a glimmer and a spark, to fire up the dark, to fire up the heart of a shadow when it's come to part. Expire, 'cause I've been

Eclettica. Fine della prima parte.